Yes. Rimaliena. Matto come lo scacco, come la vicina fatta a pezzi in un sacco, come l'additivo velenoso nel tabacco, come dinamite pronto a esplodere in un pacco. Quattro a piedi su scale sei moventi, se muovi solo i denti, pensieri non li senti. Matto da negare in una vasca, lo hanno ritrovato grazie al cellulare in tasca. Pronto chi parla, il matto vede cose, le cose più schifose, le mani laboriose. Chi muove lei vede comando appiccicosi, dando a questa vita dei vapori dannosi. Cosa respira, manovra vitale, governo geniale, governo maiale. Ma tanto non vale, figlio del male, chi lo vuole dire allora è pazzo da legare. Non salutarlo, il pazzo contagia. Noi rimaliena, noi la zarandaggia. Non dargli corda se non lo vuoi fare, con quella corda ti vai ad impiccare. Non ascoltare, c'è sopra il divieto, non capiresti se è troppo incompleto. Fuori dal cazzo non lo sai tenere, fuori da qui non c'è nulla da vedere. Yo, siamo tutti pazzi da legare, la gente del cazzo dai mandala a cagare. Accompagnati dalle pare chiuse nelle bare, stati in ansia paranoici sono da postare. Fatti rifatti, attenti distratti, proponi movimenti due ma senza contatti. Schiacci un bottone e sono tutti contratti, con le scechimiche che fanno diventare matti. Prima aliena, non si frena. Senti questa rima come scimmia sulla schiena. Pensi che sta vita lei da sola poi si frena, come il paziente a terra e la barella sulla schiena. Morsi profondi su volti cancellati, dall'ira della gente che non l'ha mai voluti. Codici a barre su corpi dilaniati, se ce ne andremo poi saremo i benvoluti. Non salutarlo, il pazzo contagia. Noi prima aliena, noi la zarandaggia. Non dargli corda se non lo vuoi fare, con quella corda ti vai ad impiccare. Non ascoltare, c'è sopra il divieto, non capiresti se sei troppo incompleto. Fuori dal cazzo non lo sai tenere, fuori da qui non c'è nulla da vedere. Piovono prove su ombrelli bucati, salgono piovre dai tubi tappati. Entrano top e ti trovi bloccato, ma essendo malato qua è tutto inventato. Ma chi è malato? Chi caccia un latrato? Chi sogna un giorno di essere liberato? Io ci penso sopra ma la gente non perdona, la gente è complicata più del caso si indona. Il matto è l'alieno, il vuoto ed il pieno, cervelli bucati da pezzi di sieno. Ultra più metrica e ultra terreno, sfugge alla logica e forse più o meno. Non salutarlo, il pazzo contagia. Noi rimaliena, noi la zarandaggia. Non dargli corda se non lo vuoi fare, con quella corda ti vai ad impiccare. Non ascoltare, c'è sopra il divieto, non capiresti se sei troppo incompleto. Fuori dal cazzo non lo sai tenere, fuori da qui non c'è nulla da vedere. Non salutarlo, il pazzo contagia. Noi rimaliena, noi la zarandaggia. Non dargli corda se non lo vuoi fare, con quella corda ti vai ad impiccare. Non ascoltare, c'è sopra il divieto, non capiresti se sei troppo incompleto. Fuori dal cazzo non lo sai tenere, fuori da qui non c'è nulla da vedere. Yo.